sentirmi buono, andare avanti, portare altri suoni. Ecco, altri suoni. La rubrica tra EDM, glitch, elettronica, post rock, alternative rap, quelle sonorità che di solito non vanno se non che in determinati format estremamente specializzati verso l'una di notte. Beh, noi le mandiamo alle 7:47 minuti con il Breakfast Club. The Silver Circle di Jan Jalinek è la sigla e noi restiamo in Germania. Abbiamo conosciuto ieri il progetto di Anno Lechtmann Static con la City Center Office. Oggi conosceremo un'altra label, ma più che altro, che è la City Slang, ma più che altro conosceremo un altro progetto di un trio. La particolarità, vabbè, questa è abbastanza secondaria rispetto ai contenuti musicali di cui vi parlerò a breve. Loro sono i Toro Cocorot, e che particolarità è che un nome palindromo si può leggere in tutti i versi, sia da sinistra verso destra, ma anche da destra verso sinistra. Beh, dopo questa curiosità iniziamo con chi ha collaborato con il protagonista di ieri e con altri progetti, cioè Ronald Lipok, il leader di questa formazione, con il fratello Robert, che è chitarrista, compositore. Ronald Lipok invece alla batteria, alle sonorità analogiche. Conclude il trio un batterista che è Schneider, questi nomi già la dicono lunga dall'etimologia teutonica. Beh, definiti post rock vuol dire tutto e non vuol dire niente, insomma è stato un movimento molto importante, anche molto bello, per quello che a Chicago ha visto lo spazio dei Tortoise, su cui abbiamo già fatto uno speciale, ed è caduto nel momento in cui proprio in questo spazio, in questo recinto definito post rock, poi tutto quello che aveva una tipologia musicale astratta e nello stesso tempo così particolare tra elettronico e acustico diventava post rock. Ciò non toglie che molti lavori siano stati quanto mai importanti, tra questi Toro Cocorot. La collaborazione di Ronald Lipok poi anche con i Tarwater, di cui abbiamo parlato, e altre formazioni Titled Trio, abbiamo fatto lo speciale su di loro, domani faremo Isotope 217 e ci spostiamo, torniamo negli Stati Uniti d'America. Concludiamo così questo giro in Germania con la formazione che vi ho appena descritto. Dal punto di vista della storicità, siamo nel 1996, il loro primo disco viene pubblicato in copie limitatissime, per cui purtroppo non ho la sapete che io non scarico nulla nei limiti del possibile, ma abbiamo il loro secondo lavoro per City Slang, il titolo è Veiculo. Ascoltiamo questo brano dal lavoro che ufficialmente chiamiamolo il primo, ecco, come diffusione per i Toro Cocorot, e torniamo in diretta per analizzarne un pochettino i suoni. A tra poco, buon ascolto. Thank you. nei suoni, ricerca, elegante, forbito, molto aperto, curiosi, imprevedibili, portano con questi lavori la diversità nel suono e nello stesso tempo nell'immaginazione, una fantasia molto da acquerello, da colori e da tinte che possono essere sia tenui per quanto riguarda l'armonia che curiose per l'aspetto ritmico reiterato ma con dolcezza. A me loro piacciono tantissimo. Gruppi che ho citato, ognuno con le proprie caratteristiche, poi sono caduti nel cerchio del post rock, ma è giusto così, va benissimo, ci mancherebbe, anche perché magari così ci si rende un pochettino con l'idea. Certo, non sono gruppi di exotica, anche se nel post rock ci sono delle sensazioni di exotica e cocktail music, ma per il lavoro di Trococo Roth, chiamiamolo, anche se non è il primo ufficiale, è stato il primo a grande diffusione per City Slang Veicolo. E lanciamo anche il secondo brano dal loro terzo disco, in questo caso. Sentite come l'ambient ha eleganza, apertura, ha quell'armonia capace di rapire, avvolgere. E la ricerca musicale dei fratelli Lipok per diversi anni è stata veramente molto molto incisiva e curiosa. Ecco, la curiosità probabilmente è la caratteristica principale di questi lavori, oltre che un aspetto leggibile di gusto importante, quello è fondamentale. Musica di stagione, con questa rifrazione della luce, questo effetto Morgana che stordisce, qualcosa di avvolgente. Questo è uno dei dischi, insieme a quell'altro con cui concluderemo la parte di altri suoni. Questo è The Amateur View 1998, sempre City Slang, è ritenuto uno dei dischi, diciamo, più consigliati per chi vuol conoscere il progetto berlinese dei Trococo Roth. We'll be right back. Eccolo qui il terzo lavoro con cui concludiamo la mini playlist con i tre dischi più importanti che sono Vehicle, The Amateur View e The Music is a Hungry Ghost. La musica è un fantasma affamato e in effetti l'aspetto di ectoplasma a volte con questi tappeti sonori danno l'idea, come nella copertina di Music is a Hungry Ghost, le figure sono così un pochettino trasparenti. Qui c'è una collaborazione, sentite una ritmica più definita, ed è un produttore, un DJ, Craig Willingham, e infatti è Rocco Corot and the High Sound. Tortoise o Tortoise, Mice Parade, altro gruppo che parleremo della Fat Cat Record, gli stessi Tarwater di cui abbiamo già presentato alcuni lavori, Toroko Corot, Tight Ticket Rio, domani con Isotope 217. Ecco, quanto mi piacerebbe trovare nella lista dei concerti jazz di alcuni club anche queste figure per quanto riguarda la stagione concertistica. Questo è parere personale, ovviamente, proprio perché il linguaggio di improvvisazione nell'elettronica analogica, nello studio dedicato alle armonie quanto mai curiose, hanno una sorta di ragionamento in jazz. Ok, intanto io vi ringrazio per l'attenzione, se vogliamo anche per la sopportazione. Sapete che Altri Suoni porta musica tipica e tornerà domani. Lo speciale sarà, beh, ci spostiamo negli Stati Uniti d'America con la formazione che io ritengo magari più soul ma parallela ai Toroko Rot, Oltreoceano, come vi ho detto, Isotope 217. A tra poco con il Moved Groove, quindi ascoltiamo ancora un po' di note da questo brano tratto da Music is a Hungry Ghost. Oggi abbiamo conosciuto i Toroko Rot e questa è la conclusione di Altri Suoni. A tra poco! I'm gonna go to bed.